La versione di Oscar, di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24, in questo mercoledì 23 settembre siamo in diretta alle 16:29 primi 40 secondi dagli studi di Radio 24 di Milano. Oscar Giannino vi saluta e vi ringrazia degli ascolti diretta e col podcast, e vi annuncia subito di cosa parliamo oggi per consentirvi di intervenire all'800 24 00 24. Gli sms lo sapete, 349 238 6666. Oggi parliamo di due vicende che hanno a che fare con due tratte autostradali, e siccome si tratta dei soldi nostri, sia come coloro che le percorrono pagando le tariffe, ma soprattutto come contribuenti, vedrete in tutti e due i casi, c'è una riflessione profonda da fare, secondo me, su come questo tema, che è fuori dalla grande attenzione dei giornali, che ci danno per tre mesi, 5, 6, 7 pagine al giorno su questa cosa delle attività del Senato, che poi avete visto com'è finita, inciso, io non ne ho mai voluto parlare perché avevo pochi dubbi che finisse così, ma detto tutto questo, la mia opinione è che se si fosse dedicato da parte della politica e innanzitutto del PD un centesimo della stessa attenzione riservata a questa prova di interna che finisce con questo meccanismo di designazione regionale, a tutto quello che non funziona invece dei poteri attribuiti a questo Senato, per cui era meglio abrogarlo e basta, io penso che ne avremmo tutti guadagnato. Invece due mesi e mezzo bloccati su questo prova di forza che poi finisce per l'ennesima volta in un nulla di fatto, devo dire che sono anche abbastanza soddisfatto, con un meccanismo però ridicolo di designazione con un listino a parte per un Senato di cui tutti ad appassionarsi di questa faccenda e nessuno dei poteri che non hanno equivalente in nessuno dei paesi in cui ci sono senati a rappresentanza territoriale, davvero non è un mostro giuridico da questo punto di vista. Singolare paese se si tratta di mettere mano alla Costituzione, no? Quando poi non tocchiamo, non accorpiamo le regioni, non abroghiamo gli statuti speciali. Chiusa parentesi, perché questa storia in questi due mesi e mezzo a me ha lasciato molto perplesso, finisce così, benissimo, nel grande trionfo dal dire che queste sono le grandi riforme. Benissimo. Detto tutto questo, fuori dall'attenzione che invece va a queste vicende, su pezzi di infrastrutture dell'Italia molto importanti, lunghi centinaia di chilometri, avvengono cose abbastanza singolari dal mio punto di vista, perché testimoniano uno Stato che, anche quando dichiara di voler far fare ai privati, siccome i privati sono un po' furbastri, l'opera non viene come doveva venire, perché si rivela che non è in grado di produrre il reddito in base al quale i privati l'hanno finanziata, e a quel punto scatta il meccanismo per cui lo Stato si ripiglia tutto, paga, e francamente è una doppia presa in giro, perché a questo punto è un calpestare l'idea che i privati possano davvero mettere capitale con certezza che tornano perché sanno fare bene le previsioni delle opere, e dall'altra il contribuente, dopo che si è sentito raccontare per anni che ci pensavano i privati, non erano soldi dello Stato, invece caccia i soldi per prendersela in un caso. In un altro caso invece la cosa incredibile di un'autostrada che scade la concessione, naturalmente a quel punto uno pensa, benissimo, si fa la gara e lo Stato reincassa. Neanche per idea, scade la concessione e invece l'idea è di ridarla a chi l'aveva, ma siccome non si può fare, perché in quel caso l'Europa insomma avrebbe di che redire, lo si dà ad altri enti pubblici di chi l'aveva, perché erano enti locali del Trentino e del Veneto, senza fare la gara e prolungandogli la concessione. Domanda: perché? Cioè, in base a quale diritto si fa una cosa simile? Ecco, allora, sulle stranezze, qui stiamo parlando di roba che conta per miliardi di euro, miliardi di euro, su stranezze di questo tipo è il caso di riflettere fuori dall'attenzione di tutti, perché implicano uno Stato che non sa fare il suo mestiere neanche quando dice che lo fa fare ai privati, perché poi alla fine paga quello che i privati hanno sbagliato, nel primo caso. Nel secondo invece fa un favore ad altri enti pubblici, ma non si capisce perché, e oltretutto prorogando una concessione, rinunciando a dei soldi. In entrambi i casi siamo in presenza di una roba per cui non bisogna essere per il mercato o contro lo Stato, e proprio non si capisce quale sia la logica pubblica di questi comportamenti. Quali sono queste due opere? Ne parla oggi il Fatto Quotidiano di entrambe, e viva viva che c'è chi lo fa in termini critici. La prima è la Brebemi, cioè l'autostrada appunto vantata dal 2003 in poi, che doveva alleggerire il traffico della A4 sulla Milano e Venezia, sulla tratta Brescia-Bergamo-Milano, e più breve, perché a differenza della A4 che ha un picco da Brescia verso il nord per Bergamo e poi riscende giù verso Milano, taglia verso il basso, se non che siccome il traffico e quindi la redditività in termini di tariffe non è affatto quella attesa, ecco che scopriamo che fin dall'inizio il patto era che a quel punto si la ripiglia lo Stato e ripiana lui. La seconda opera invece di cui parliamo, la seconda autostrada, è l'autobrennero. L'autobrennero, cioè quello che va da Brennero a Modena, una vecchia autostrada iperammortizzata di cui scade la concessione, e pare che adesso lo Stato farà quello che vi ho detto. Allora, per farvene parlare e farvi capire meglio tutto ciò che non va in entrambe queste vicende, abbiamo coloro che hanno scritto i pezzi e che quindi si sono ben documentati sulla faccenda, che ringrazio di essere con noi per questo che io considero un ottimo esempio di giornalismo di approfondimento che scava laddove ci sono interessi sia pubblici che privati che non gradiscono questo genere di scavi e di approfondimenti, per così dire, perché rivela tutto quello che non era stato detto negli anni precedenti e che però scatta poi a spese del contribuente. Allora, è con noi Giorgio Meletti, giornalista del Fatto Quotidiano. Buongiorno e grazie Giorgio. Buongiorno. E Marco Ponti, che insegna economia applicata al Politecnico e scrive sulla voce.info, e sempre sul Fatto Quotidiano di oggi trovate un suo articolo sulla voce.info che viene ripreso con dei cambiamenti oggi sempre sul Fatto Quotidiano dedicato all'autobrennero. Allora cominciamo dalla Brebemi Meletti. Questa storia che adesso lo Stato ci mette 1,7 miliardi e subentra i privati, era chiara fin dall'inizio che funzionasse così? Sì e no, era la storia della Brebemi, la truffa è duplice. Da una parte c'è questo fatto che nei contratti tra il privato che propone il project financing e lo Stato c'è scritto che se gli affari andranno male lo Stato deve garantire il cosiddetto riequilibrio del piano economico finanziario. La cosa scandalosa è che questi contratti, dove c'è scritto che il contribuente sarà chiamato a pagare per le prossime generazioni questo conto, questi contratti sono segretati. Non si sa perché, sono segretati. Esatto. Scusate se ti interrompo, cari ascoltatori, è possibile mai che in quello che ci è stato contrabbandato per anni, io ci credo ma fatto in un altro modo, il project financing, cioè il fatto che sono e la finanza privata, siccome lo Stato ha poche risorse per investire e sappiamo abbiamo un totale di investimenti pubblici drammaticamente fermo al 2,3%, diminuito negli anni, del PIL diminuito negli anni, allora questa formula, il project financing, la partnership tra pubblico e privato, i privati finanziano opere, per finanziare le opere devono avere certezza della redditività dell'investimento sia sui tempi di realizzazione e soprattutto devono avere dei bravi progettisti in grado di valutare quale reddito si può ricavare. In questo caso, nel caso della Brebemi, è evidente l'errore, perché il traffico e quindi le tariffe che si incassano sono enormemente sottodimensionate a quello che è stato detto. Ma come si può accettare, sia in chi crede nella primazia dello Stato, sia in chi crede in quella del mercato, sia chi crede semplicemente che dobbiamo essere equilibrati e avere entrambe le cose che funzionano in un'economia, come si può accettare l'idea che i contratti in base a cui poi i privati fanno queste robe e si prendono la garanzia dello Stato siano secretati? Ma dove viviamo? Scusa se ti ho interrotto, perché per me questa è una roba intollerabile. Allora, l'altra cosa che è dentro i contratti segretati ancora più scandalosa è la seguente. Fu fatto nel 2003 il bando di gara, e quindi nel bando di gara, a cui hanno partecipato vari soggetti, e lì è l'ultima volta, cioè 12 anni fa, è l'ultima volta che si è visto qualcosa di pubblicato. Nel bando di gara c'era scritto ovviamente che l'autostrada sarebbe costata 800 milioni e che il privato se la costruiva a sue spese e si sarebbe ripagato dell'investimento attraverso i pedaggi e al termine della concessione, cioè dopo 19 anni e mezzo, avrebbe riconsegnato esatto. l'autostrada allo Stato che ne era il legittimo proprietario. Dopodiché cosa succede? Anni dopo la convenzione col vincitore della gara, che è questa società Brebemi, viene riscritta sempre segretamente, o meglio, alcune parti di questa cosa vanno al Parlamento per il parere. Siamo al 2007 a quel punto. Dalla legge nel 2007 e lì si scopre che l'autostrada, che a quel punto si dice che costerà 1,6 miliardi e non più 800, cioè il costo è raddoppiato. Il privato che se la costruisce tutta coi soldi suoi dovrà restituire l'autostrada a fine concessione, ma a quel punto avrà diritto a farsi pagare per il disturbo 1,2 miliardi. Quindi hanno bandito la gara per un project financing con cui faceva tutto il privato e lo Stato dopo 19 anni si trovava proprietario senza sborsare un euro di un'autostrada. Dopodiché hanno cambiato il contratto e nel contratto hanno scritto che quell'autostrada comunque 1,2 miliardi bisogna darglielo. E allora ricordiamo che all'atto di questa riscrittura nella compagine era Banca Intesa che era diventata poi la parte fondamentale, quindi diciamo, non sbagliamo a dire che è stato un bel atto di sensibilità della politica verso Banca Intesa a prevedere che da che doveva essere gratis il subentro dopo 19 anni invece comunque bisognava dargli 1,2 miliardi. Devo dire che il ruolo di Banca Intesa nella vicenda è ciò che rende poi il tutto assolutamente sublime, perché Banca Intesa, che è una banca, si mette anche a fare la concessionaria autostradale, si mette a fare il primo azionista di una società di project financing. Che cosa fa? Per costruire l'autostrada chiede un prestito a Banca Intesa stessa, che glielo dà a un interesse piuttosto alto, così che Intesa guadagna sempre, perché esatto. la società Brebemi si svenerà per pagare gli interessi a Banca Intesa, perché tanto se la società Brebemi va a rotoli, anche perché si deve svenare per pagare il 7% di interessi su capitali che la BEI, la Banca Europea degli Investimenti, ha dato a Intesa al 2%. Ecco. Quindi c'è un aggio secco del 5% tra Banca Intesa che nella raccolta di Banca Intesa dalla BEI a tasso agevolato, dalla Banca Europea degli Investimenti, e quello che presta alla concessionaria di cui è diventata Magna Pars, la banca comunque si becca un differenziale secco di 5 punti. E in più lo Stato gli dice comunque io alla fine a voi 1,2 miliardi ve lo do, allora, mentre prima non doveva darlo. Nei 20 anni circa dell'operazione, questo spread, cioè Banca Intesa riprestando a una società di cui è primo azionista i soldi che ha preso dalla BEI, con questa intermediazione Banca Intesa insieme ad altre 4 banche, Unicredit, Montepaschi, sempre le solite esatto. banche italiane, le famose banche di sistema, solo per questo disturbo si mettono in tasca 600 milioni di euro. Solo per la rivendita del credito avuto dalla BEI alla società di cui Intesa è primo azionista. E cosa fa Intesa? Tanto, se la Brebemi per pagare gli interessi a Intesa e alle altre banche va a rotoli, e tanto interverrà lo Stato interverrà e pagherà. Stato. È un meccanismo perfetto con cui io appunto, come ho fatto un po' di conti, ho scritto stamattina che di questa autostrada fatta tutta dai privati, costo 2,4 miliardi compresi gli oneri finanziari, i contribuenti ce ne mettono 1,7 miliardi. E l'epilogo di questa vicenda è arrivato il 6 agosto, perché che cosa è successo il 6 agosto? Il 6 agosto il 6 agosto, dopo che il presidente della Brebemi ha detto, perché scusa, ecco qui forse vale la pena, così gli ascoltatori capiscono meglio con che tipo di imbrogli abbiamo a che fare. Quando la Brebemi è stata inaugurata il 23 luglio del 2014, a un certo punto, già in quel momento, si è scoperto che l'autostrada non aveva traffico e quindi i conti non tornavano. E i signori della Brebemi, ma anche il governatore della Lombardia Maroni e tutto il codazzo, hanno cominciato a fare la lagna e a dire: lo Stato ci deve aiutare. A quel punto, quando qualcuno ha detto, gli stessi uomini del Ministero delle Infrastrutture, quelli nuovi, quelli di Del Rio, hanno detto: ma scusate, ma voi siete i privati, avete detto che facevate tutto a vostro rischio e pericolo, che, perché venite a chiedere adesso soldi allo Stato? E a quel punto il presidente della Brebemi, il signor Bettoni, il grande capo degli agricoltori della Lombardia, che si è messo a fare il concessionario autostradale, tra l'altro così potendosi occupare dell'esproprio di 1.000 ettari di terreno agricolo, che è stato espropriato come se fossero terreni edificabili a Manhattan, per i soldi che sono stati dati, 200.000 euro all'ettaro per espropriare i terreni agricoli per fare l'autostrada, il signor Bettoni ha detto: non c'è problema, signori, io ho i contratti, e nel contratto sapete cosa c'è scritto? Che io, quando le cose non vanno, ho diritto a riconsegnare l'autostrada allo Stato, che mi deve dare 2 miliardi e 440 milioni per rifondermi del sacrificio che ho fatto per costruire questa roba. Quindi il governo, dovendo, trovandosi davanti a questo ricatto di contratti firmati negli anni dai vari ministri Lunardi, Di Pietro, destra, sinistra, tutti uguali, sempre tutti d'accordo, perché gli appalti sono il bancomat della politica. A questo punto il governo è stato costretto a prendere atto del fatto che l'equilibrio finanziario della Brebemi è un problema dello Stato, non dei privati che l'hanno costruita, e quindi lo Stato ha già mollato altri 320 milioni di contributo e ha allungato la concessione da 19 e mezzo a 25 anni e mezzo. Ora capite bene, in questa ricostruzione, che è stata molto chiara, io ovviamente le cose un po' le conosco, ma io spero che anche chi non conosce la cosa abbia capito come dal 2003 al 2007 raddoppio dei costi, comunque gli errori pazzeschi di stima del ritorno e della redditività di questa opera, il cambio di convenzione al mutare anche degli azionisti privati della Brebemi nel 2007, il Parlamento ha dei dubbi e a quel punto il ministro Di Pietro, che ha brutto muso, dice: questa roba si fa e basta, che cavolo di dubbi avete? Adesso, dopo l'inaugurazione, è stato 2014, con i privati, e che ancora raccontavano tutto bene, tutto bene, tutto bene, adesso lo Stato ci mette i miliardi e gli azionisti privati, in particolare il primo azionista privato bancario, che già faceva i soldi con un enorme spread della raccolta dei soldi che faceva la BEI a tasso agevolatissimo rispetto a quanto li prestava alla società di cui era il primo azionista, cioè quella della concessionaria autostradale, avrà la sua quota parte anche di questi soldi dello Stato. Capite che questa roba qua non c'entra con viva i privati e viva il mercato. Questo è un patto oscuro e secretato tra chi approfitta l'uno dell'altro, ma i soldi poi alla fine li mette il contribuente, dopo anni a raccontare che questo era il vanto dell'Italia, la prima grande opera pubblica, la grande Lombardia fatta tutta dai privati. Io sono due volte più sdegnato in quanto liberale, liberista, mercatista, come dicono tutti, perché questa roba qua affossa ogni idea sia di correttezza del regolatore pubblico e dell'investitore pubblico, sia di quella dei privati, perché è evidente che questi stiamo parlando di patti fatti fuori da ogni trasparenza di mercato. Scusate la brutalità e viva chi se ne occupa, perché queste robe dovrebbero essere scandali nazionali nelle prime pagine, per quello che mi riguarda. Non è finita qua. Io intanto ringrazio Giorgio Meletti per quello che ha scritto, quello che ci ha raccontato. Adesso pausa un minuto e torniamo a occuparci di un'altra faccenda col professor Marco Ponti, a cui chiederemo comunque anche un'opinione su questa della Brembemi, e andiamo a vedere cosa succede all'Auto Brennero, e anche lì c'è di che mettersi le mani sotto i piedi, per non dire da un'altra parte, o forse addosso a qualcuno, ma noi siamo legalitari, quindi viva, abbasso ogni tipo di violenza, lo sdegno però sì, perché i soldi sono i nostri, cari amici ascoltatori. Grazie a Meletti, torniamo tra un minuto. Autostrada Pedemontana, la prima e unica senza caselli, scoprila su pedemontana.com. Vi presenta la versione di Oscar. Allora, naturalmente siamo tornati in diretta, ma dalla regia qui di fronte a me sono partite grasse risate, perché come avete sentito per caso, dopo aver fatto la tirata contro la Brembemi, c'era lo spot della Pedemontana e adesso ce n'era un altro, viva il Trentino, e noi dell'Auto Brennero adesso parliamo proprio di un favore, per così dire, che è in atto abbastanza incomprensibilmente da parte dello Stato sostanzialmente al Trentino Alto Adige, perché il Trentino Alto Adige è al 54% socio dell'Auto Brennero, e poi per il 28% sono altri enti pubblici del Veneto. Allora, professor Marco Ponti, innanzitutto ci può dire cosa pensa lei della vicenda che abbiamo spiegato prima, quella della Brembemi? Meletti è bravissimo, ma gli ascoltatori devono sapere che queste condizioni sono vere per tutte le concessioni autostradali italiane. Questo volevo, cioè, che questo dicesse, tutto segretato. Non solo, ma tutto garantito. Esatto. Il privato ha garantito capitale ed interessi segretati, qualsiasi cosa succede, cioè se il traffico c'è oppure non c'è, comunque quei soldi gli vengono garantiti, cioè non c'è nessun rischio d'impresa. Aggiungiamo, professore, che il governo, anche questo governo, ha levato dalle competenze della nuova, certo, autorità per i trasporti, certo, esattamente quella delle concessioni autostradali, certo, che rimarranno segretate. Vabbè. Certo, ma questo l'ha detto, non la dice il maligno Ponti o il cattivissimo Meletti. Questa situazione, che ha definito in qualche modo il paese di Bengodi dei concessionari, è dell'ingegner Castellucci, che è amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, cioè della maggior rete autostradale, che è una persona molto trasparente, ha detto: ma questo è il paradiso dei concessionari, noi non possiamo mai perdere soldi, garantisce tutto lo Stato. L'ha detto lui in pubblico, se già qualcuno avesse dei dubbi, insomma, su questa cosa. Questo ovviamente induce, come dicono gli economisti, a comportamenti incauti, ecco, cioè comportamenti a fare incauti di tutto e di più. Allora, di cosa succede? Un esempio, ma c'è il pieno d'Italia di comportamenti, esatto, di quel tipo. Perché mai dovrei non rischiare se tanto sono coperto sono e garantito da condizioni quindi segrete? Il male è assolutamente generale. La Brembemi è un granello di sabbia in questo grande capitolo. Allora, all'Auto Brennero, com'è che lo Stato sarebbe pronto a non fare la gara come dovrebbe e a confermare? Perché la gara è pericolosa, potrebbe vincerlo qualche non italiano, e quindi questa vacca da mungere, mi scusi l'espressione, potrebbe andare in mani altrui, e allora si preferisce non fare le gare. Il direttore del Auto Brennero, io ho il ritaglio di stampa, ha anche dichiarato pubblicamente al giornale Alto Adige che basta intervenire sul bando, ed è stato buon profeta, perché la gara non si faccia oppure la vincano quelli che c'erano prima. Io ho parlato con l'antitrust, perché mi sembrava un po' estremo come comportamento, e mi hanno detto che è normale. Cioè, ormai in Italia è normale truccare le gare, cioè fare in modo che le gare non si facciano. Naturalmente si faccia, vedremo, perché la decisione sull'Auto Brennero ne siamo in attesa proprio in termini di ore o di giorni. Vedremo, ci torneremo sopra. Intanto Fabio della provincia di Roma, esperto di concessioni, ci diceva: guardate che sono tutte segretate. Infatti lo abbiamo appena detto, Benedetto la provincia di Vicenza dice anche sulla Pedemontana Veneta sono segretate. Guardate che le convenzioni sono segretate in questo paese. È una cosa pazzesca. Grazie anche al professor Marco Ponti. Continuate con Radio 24, appuntamento con me a domani.